E allora, come annunciato, adesso ci spostiamo da Ventimiglia alla parte est della frontiera italiana e dovremmo avere in collegamento un compagno attivo da quelle parti. Ci senti? Pronto, ci senti? Sì, sì, vi sento. Ecco, perfetto. Ok, niente, allora, come dicevo, insomma, lì al Brennero sappiamo che c'è una situazione complicata, sappiamo della manifestazione di sabato scorso. Insomma, raccontaci un po' innanzitutto quali sono le impressioni dopo la bella giornata di lotta che c'è stata lo scorso fine settimana e un po' qual è la situazione adesso lì da quelle parti. Sì, allora possiamo dire che la manifestazione del 7 come momento di passaggio all'interno di una mobilitazione più ampia contro le frontiere e nello specifico contro la frontiera del Brennero ha avuto di sicuro degli aspetti positivi. Possiamo dire che ha fatto un po' saltare il tappo, quindi creando parecchie discussioni attorno a questo tema. E come partecipazione, come spirito, non possiamo che essere contenti, nel senso che sapevamo che non sarebbe stata una giornata semplice. Nelle varie presentazioni, sono state parecchie, non solo in Trentino, l'avevamo detto, però per quanto riguarda gli obiettivi, che erano proprio apertamente, dichiaratamente quelli di bloccare le vie di comunicazione, possiamo dire che il risultato è stato ottenuto. Non è che siano mancati gli aspetti anche difficili, delicati sul piano pratico, organizzativo, però come spirito i tanti e le tante che sono venuti lo hanno fatto con il cuore. E l'altro aspetto positivo è che quella manifestazione lì ha collocato la questione Brennero nel contesto in cui va collocata, vale a dire a livello internazionale, perché la giornata del 7, al di là della manifestazione al Brennero, è stata una giornata che ha visto manifestazioni, iniziative, blocchi in parecchie parti d'Europa e qualche segnale c'è stato anche dall'Italia. Quindi in questo senso è stato un passaggio che ha messo peso sulla questione ed ha aperto, speriamo, nuove possibilità, nuove strade. Certo, ecco, insomma, mi ricollego un po' a quello che dicevi, insomma, un po' tante persone che sono venute lì alla manifestazione, come tu, insomma, dicevi, l'hanno fatto un po' con il cuore. Ecco, questo ci sembra, questa questione un po' dello spirito, di come portare avanti un po' in generale la lotta contro le frontiere, ci sembra assolutamente centrale in questo momento, anche perché sappiamo che, insomma, lì da quelle parti, intorno al Brennero, c'è anche, insomma, un'attenzione da parte, no, non solo di compagni e compagne, ma di vari partitini, insomma, che magari vanno lì, fanno propaganda, eccetera eccetera. Quindi, insomma, è importante dare un segnale concreto e pratico proprio in questa direzione qua, che va appunto inserito, come giustamente tu dicevi, in un contesto più ampio e che insomma speriamo non si fermi a una o qualche giornata di lotta. Senz'altro, infatti il ragionamento è esattamente questo, anche perché la questione del governo, come dicono loro signori, dei flussi migratori e quindi dei controlli va ben al di là di una recinzione metallica che possono costruire o meno. Quello è l'aspetto più diretto, più emblematico, sul quale ovviamente è necessario e anche giusto porre l'attenzione, perché i nodi, quando sono più aperti, più manifesti, determinano anche una spinta maggiore che bisogna saper cogliere. Però proprio noi sappiamo benissimo che se invece di una recinzione utilizzano i controlli di polizia dell'esercito sui treni, alle stazioni, sulle autostrade, sulle ciclabili, eccetera, senza il ricorso al filo spinato, la sostanza della questione non cambia e il balletto ipocrita delle varie dichiarazioni politiche, soprattutto italiane, contro la decisione dell'Austria, va letto in quel senso lì, perché il ragionamento che fanno le autorità italiane è: evitiamo la barriera, di sicuro non perché interessi a qualcuno la vita degli immigrati e delle immigrate, ma per il disagio che creerebbe alla circolazione delle merci, e invece puntiamo sul rafforzamento della detenzione amministrativa, la creazione dei nuovi hotspot, la gestione della cosiddetta accoglienza secondaria, e nel frattempo si sono accentuati i controlli al viso in quelli che noi abbiamo chiamato proprio i treni dell'apartheid, che fanno sì che chiunque sia scuro in viso certi treni non li può prendere. Ecco, quindi il discorso è contrastare tutta questa macchina. Il passaggio del Brennero puntava sull'aspetto più emblematico per porre la questione più, più in generale, e da questo punto di vista pensiamo, insomma, ecco, come dicevo prima, che abbia fatto saltare il tappo, ma adesso bisogna continuare su tutto il resto. Non è che se questi non tirano sul muro, perché hanno comunque dei problemi, sia se lo tirano su sia se non lo tirano su, noi ci fermiamo, e questo noi è e deve essere un noi internazionale. Assolutamente, assolutamente sì. Poi se ci vuoi un pochino aggiornare, anche perché sappiamo che poi in seguito alla manifestazione ci sono stati degli arresti, quindi se ci vuoi aggiornare un pochino su com'è la situazione adesso. Sappiamo che sono stati tutti liberati, no? Se non sbaglio. Esatto, c'è stata l'udienza, fatto il processo per direttissima lunedì a Bolzano, e i sei compagni sono stati scarcerati, sono stati condannati a pene che vanno da un anno a un anno e quattro mesi, quindi 16 mesi, alcuni con la sospensione condizionale della pena, qualcun altro senza la condizionale e con il divieto di dimora nella provincia di Bolzano come misura cautelare. Questo con il rito abbreviato che dà lo sconto di un terzo, quindi le richieste erano piuttosto, come dire, alte, sembrava che tirasse proprio aria di processo esemplare, e comunque rispetto all'accusa di resistenza, perché tecnicamente era questa, hanno fatto, diciamo, una sentenza cerchio bottista, non proprio esemplare, però aumentando un po' il prezzo rispetto a quello che normalmente si prende per resistenza. Comunque i compagni sono tutti fuori, poi vedremo l'appello e tutto quanto. Per quanto riguarda gli arresti e poi la scarcerazione, l'aspetto più interessante proprio di tutti è stata l'accoglienza molto calorosa, fraterna, ce l'hanno proprio definita, che hanno ricevuto i quattro compagni nel carcere di Bolzano, con racconti direi quasi commoventi. Per un insieme di fattori poi succedono queste cose, no? Nel senso che i detenuti hanno visto in TV quello che era successo al Brennero. Tra l'altro alcuni erano in contatto con i compagni, perché erano stati trasferiti da altri carceri. C'è stato un presidio fuori piuttosto numeroso e anche piuttosto rumoroso, con un bel entusiasmo di risposta da parte dei detenuti, e i quattro compagni sono stati veramente accolti come dei fratelli. Questo è stato molto molto bello. Questo ci fa non può che farci piacere. Poi insomma parlavamo prima anche con una compagna attiva in quel di Torino, ecco, anche in questo caso, cioè, notiamo un po' in generale, lo abbiamo visto qui a Roma, lo abbiamo visto a Brindisi, lo abbiamo visto a Torino, e ovviamente in tutte le situazioni attive che si occupano in maniera, diciamo, attiva e concreta contro tutta la macchina delle espulsioni e contro tutto il discorso che ruota intorno alle frontiere, l'accerchiamento insomma poliziesco insomma è abbastanza forte. Questo chiaramente non stupisce nessuno, però ecco, l'attenzione che c'è è alta, proprio perché il problema evidentemente è forte e grande. Un'altra cosa ti chiederei, visto che insomma mediaticamente l'evento del 7 maggio è uscito chiaramente con tutta la solita canea mediatica, black bloc da tutta Europa che vanno al Brennero eccetera eccetera eccetera, insomma su questo prestiamo anche poca attenzione, però ecco, magari ci interessa capire lì proprio sul posto com'è stata un po' qual è la percezione di, insomma, a parte poi le situazioni di compagni e compagne che sappiamo sono attivi e attive appunto nelle varie lotte e nello specifico nella lotta contro le frontiere. Qual è stata la percezione, anche il riscontro lì in zona rispetto, diciamo, a tutte le altre persone che hanno magari anche partecipato a questa giornata di lotta? Ma guarda, la mia impressione, posso dire anche un po' la nostra, perché ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, è che tutto sommato questa criminalizzazione scontata, usuale, non gli abbia funzionato molto, nel senso che non a caso davano pochissimo rilievo alla questione invece più importante della giornata, che erano i blocchi. Questa cosa qua non a caso l'hanno detta, ma l'hanno detta un po' fra le righe, come se fosse un elemento accessorio, secondario, certo. Esatto, di quella giornata di scontri. Invece è un aspetto che è stato colto bene. E poi, nonostante la maggior parte dei partecipanti fossero compagni, c'era una partecipazione anche di quei raggruppamenti di resistenza che si sono creati negli anni qui, a partire da questa o quella lotta specifica, e nonostante per alcuni di loro fosse la prima manifestazione di quel tipo, quindi ci fosse anche comprensibilmente timore, no? Anche non sapere bene cosa fare, poi la lettura era estremamente serena, perché a volte meno si è, come dire, coinvolti nei percorsi di lotta e più si va all'essenziale, guardandoli un po' da partecipanti, e l'essenziale è appunto che non si poteva andare su a fare una testimonianza, e quella giornata lì è servita. Ecco, questo ci ha rincuorato molto. Questo non può che farci piacere anche a noi, perché appunto giustamente, come hai ricordato, poi appunto tutta l'attenzione mediatica, ma questo chiaramente non ci stupisce, però è sempre, magari l'attenzione è tutta su magari dei momenti di scontro, insomma, che ovviamente hanno fatto parte assolutamente della giornata, però ecco appunto l'obiettivo, come tu ricordavi, di bloccare per quella giornata lì, anche solo per una giornata, diciamo, tutti i passaggi, come insomma cercano di fare con i migranti, che è stato poi raggiunto dalla manifestazione stessa, insomma, è importante. È importante anche che tutte le situazioni appunto locali siano attive e anche solidali con queste giornate qui di lotta, perché appunto solo così, allargando il fronte un pochino, sarà magari possibile, insomma, anche radicalizzarlo un pochino di più. Senz'altro, infatti, ma ci sarà tempo anche per farlo con calma, però come primo bilancio, ecco, di elementi da trarre come insegnamenti, c'è una discussione da fare tra compagni, quelli che hanno partecipato, su gli aspetti che potevano funzionare meglio organizzativamente, eccetera. Come aspetti positivi direi che nel piccolo, stiamo parlando di una giornata, il SET ha dimostrato che quando le mobilitazioni su temi rilevanti, perché insomma qua c'è in gioco il futuro di centinaia di migliaia di persone, non stiamo parlando di faccende da cortile di casa, vengono costruite in modo chiaro e spiegate bene, vengono capite non da chissà quale parte consistente dell'universo mondo, ma da quella gente che ha sensibilità, da quella minoranza più o meno consistente che già si sta battendo per qualcosa. E questa dimostrazione del fatto che la chiarezza dei contenuti e degli intenti sono due elementi necessari in quest'epoca qua. E chi invece dice ma teniamola un po' più bassa, facciamo delle cose un po' più simboliche, allarghiamo così astrattamente il numero dei partecipanti, non allarga tanto di più innanzitutto, quindi si rivela anche illusorio, oltre che non condivisibile questo ragionamento, e soprattutto non sposta poi l'ambito delle discussioni. Questo secondo me dovrebbe far riflettere, e alcuni di quelli che hanno partecipato a quella giornata l'hanno vissuta tutto sommato serenamente, perché il fatto di scendere in piazza in un determinato modo, qui dalle nostre parti nell'ultimo periodo, con quel poco che riusciamo a fare, è diventato un po' un costume. Nel senso, chi ha esperienza di situazioni in cui la polizia carica gas a manganella, eccetera, tutta una serie di discorsi non li fa quasi più. Ecco, quindi io penso che ci siano degli spazi che vanno saputi cogliere con la determinazione del caso. Assolutamente, suggestione importante, interessante, proprio perché appunto giornate del genere, ripetiamolo, sono importanti, e da questo punto di vista qua, come tu dicevi, la chiarezza e anche un certo modo, non so come dire, di essere diretti e di andare appunto direttamente all'obiettivo, probabilmente paga di più di qualsiasi altra scelta che poi ruota intorno a un consenso da allargare intorno a delle questioni che, insomma chi ha sensibilità per determinate cose, poi delle lotte, delle giornate di lotta, delle situazioni di lotta se le sente proprie, e quindi serenamente insomma sceglie da che parte stare. Ecco, quindi questo mi sembra una suggestione assolutamente interessante, proprio perché adesso, come sappiamo, arriverà con l'arrivo dell'estate, probabilmente tutto questo, tutta questa situazione che ruota intorno alle frontiere vedrà dei picchi insomma abbastanza complicati e interessanti, e lì bisogna farsi trovare tutti e tutte pronti e pronte per essere quantomeno all'altezza della situazione storica. Ecco. Non c'è dubbio, infatti nell'immediato futuro credo che sia proprio necessario creare dei momenti di discussione, di confronto tra quei compagni e i compagni che sono attivi, diciamo, sulla macchina tritacarne dei controlli delle frontiere nelle sue diverse sfaccettature, che hanno anche una dislocazione geografica, quindi dagli hotspot per arrivare alle barriere. Cioè, in questa fase dobbiamo cercare di tirar fuori il meglio delle nostre capacità di analisi e anche di proposta. E tra l'altro la controprova di quanto a volte le lotte smuovano anche quegli ambiti che a noi non interessano per nulla o interessano molto poco, se qualcuno vuol fare sto esperimento, che si legga le dichiarazioni dei vari politici, sia locali qua sia italiani, attorno alla metà di marzo, sulla decisione annunciata dallo Stato austriaco di voler chiudere il Brennero, e quelle degli ultimi giorni. Non sono affatto le stesse. Prima si dava per scontato che tanto se lo vogliono fare lo fanno, e allora bisogna rafforzare i controlli a sud. Ecco, queste oscillazioni del discorso politico-istituzionale, che vanno prese per quello che sono, dimostrano il fatto che più ci sono le lotte e più, come dire, le contraddizioni tra le varie parti della classe dominante, tra i vari stati, emergono. Assolutamente, quindi insomma organizzandosi bene è possibile anche essere incisivi, perché spesso un po' quello che a volte si sente è un po' questo sentimento un po' di frustrazione di vedere tutte le cose come troppo grandi e impossibili da cambiare, o comunque c'è questo sentimento come si pensa che è difficile essere incisivi, invece in realtà bisogna solo fare, come appunto giustamente tu dicevi, delle giuste analisi e trovare insomma le pratiche appropriate e insomma all'altezza del momento. Per noi è tutto, siamo in chiusura, ti ringraziamo tantissimo e insomma ci riserviamo anche di, come abbiamo già fatto poi diverse volte da questi microfoni e da questa trasmissione, di magari di tenerci in contatto e insomma per aggiornarci un po' sulla situazione che c'è lì e insomma per scambiarci come sempre un po' di idee. Ok, grazie a voi per l'attenzione con cui avete seguito questa mobilitazione. Va bene, un saluto e un abbraccio forte. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao.